saccia. Verrai, dove a dirti, signore re? Era l'incerto. In breve crescerò sangue innocente, e di lete all'onor, di fregi agli ostri. I detti tuoi mi fan confuso e lieto. Così ci parla il cuore, ambizione e amore. Non intendi qual col mio labbro ma te fa fendi il vero ridere cinese impero sposa con i gadori goderanno rival di tue fatiche il frutto io ti fia che rimando sull'infamia il rimorso e l'onta e il lutto come?